Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Voi vi arroccate nel bunker in basso per tenervi stretto al malloppo. E noi, Presidente, continueremo ad opporci e continueremo a chiamarvi ladri. Deputato Fraccaro, la invito a terminare il suo intervento usando un linguaggio non offensivo dell'Aula e del Parlamento. Alla Camera delirio, scontro, insulti e minacce sul finanziamento pubblico ai partiti, ladri, avete sentito, grida Fraccaro del Movimento 5 Stelle. Nel frattempo Grillo e Casaleggio sconfessano i loro senatori, l'abolizione del reato di clandestinità non era nel programma. Sequestrato e poi rilasciato dopo poche ore il premier libico Zeidan, sarebbe una risposta alla cattura da parte americana di al-Libi, qaedista ricercato da 15 anni, governo italiano riunito. La manovra correttiva senza nuove tasse, tagli di spese e vendite di immobili per raggiungere l'obiettivo del 3% nel rapporto tra deficit e PIL. L'ex venerabile maestro della P2, Licio Gelli, indagato con la famiglia per una maxi evasione da 17 milioni di euro, sequestrata la mitica Villa Wanda. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno. Vi parleremo in realtà molto brevemente anche di Alitalia oggi, ed è la domanda che, sulla quale vi sollecitiamo oggi sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Leggerò qualche commento più avanti. E però la nostra notizia di apertura in realtà non è nei titoli, perché dovrebbe essere stato assegnato, non so se pochi minuti fa è già stato assegnato oppure no, il premio Nobel per la letteratura. Alessandra Tedesco, buongiorno. È stato annunciato in questo istante la canadese Elise Munro, il premio Nobel per la letteratura del 2013, un premio di cui anche noi personalmente siamo contenti, perché ne abbiamo parlato spesso anche a Radio 24 di questa scrittrice straordinaria che era in odore di Nobel da tantissimi anni, ed effettivamente quest'anno le è stato consegnato un Nobel meritatissimo. Ricordiamo che Elise Munro, come del resto Philip Roth, proprio due o tre mesi fa aveva annunciato che non avrebbe più scritto romanzi. Lei in realtà è specializzata nei racconti più che nei romanzi, perché diceva: non ho più niente di nuovo da raccontare e quindi mi ritiro, diciamo, a vita privata. E oggi l'Accademia di Svezia l'ha premiata con questo Nobel straordinario che, lo ripetiamo, va alla scrittrice canadese Elise Munro. Grazie Alessandra Tedesco, poi torneremo a collegarci con te, insomma cercheremo voci e approfondimenti nel corso di questa edizione di Effetto Giorno. Adesso veniamo alle cose nostre, scendiamo un po' più in basso e parliamo di quello che sta succedendo alla Camera dei Deputati, o meglio di quello che è successo questa mattina e della confusione che ruota intorno al Parlamento in genere. Avete sentito nell'audio di apertura lo scontro violentissimo sul finanziamento pubblico ai partiti, i deputati del Movimento 5 Stelle che urlano ladri e le reazioni degli altri parlamentari, una giornata intensa tra l'altro perché dopo il voto per l'abolizione del reato di clandestinità ieri in Senato, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio sconfessano i senatori a 5 Stelle che l'hanno proposto. Dunque, Grillini al centro di tutte le vicende di queste ore, Elisabetta Fiorito da Montecitorio, buongiorno. No, mi dicono che abbiamo un problema, allora, quindi ci fermiamo. Allora, veniamo alle notizie che arrivano dalla Libia, tra poco ritorneremo sulle vicende parlamentari italiane. L'altra notizia di giornata, si diceva, è l'arresto lampo del premier libico Zeidan, o meglio il sequestro lampo. Iniziamo a cercare di capire come è successo e perché, e ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri, che pratica queste vicende, le vicende libiche, da molti anni. Alberto, allora, dacci qualche spiegazione. Buongiorno. Mentre a Roma chiacchierano e si insultano, da molte settimane ormai la Libia sull'oro del baratro e anche lo stesso primo ministro Zeidan. Il colpo di grazia a Zeidan è venuto dal sequestro sabato scorso dell'esponente di Al-Qaeda a Tripoli, al-Libi, a opera delle forze speciali americane. Zeidan era informato di questo, è stato accusato di connivenza con gli americani e oggi, dopo essere stato in pratica anche sfiduciato dal Parlamento nei giorni scorsi, è stato praticamente sequestrato da un commando di miliziani che però, attenzione, avevano la delega sull'ordine pubblico, un arresto certamente non regolare perché mancava il via libera della procura, ma queste milizie sono ormai incorporate dentro a questo sistema libico, che è un sistema ormai assolutamente evanescente dal punto di vista statuale. Questo è uno Stato che praticamente non esiste. È stato liberato con la mediazione del Presidente del Congresso, Abu Samin, e oggi si aspettano forse le dimissioni stesse di Zidane e la nomina di un nuovo governo di emergenza. Insomma, impotente e impopolare, il povero primo ministro Zidane fa le spese anche dell'operazione degli americani, e questa azione di oggi è stato un messaggio più che all'interno del paese, a Washington e alla sponda nord dell'Europa, che vede con preoccupazione quello che accade adesso in Libia. Grazie, grazie Alberto Negri per questi chiarimenti. Si diceva sponda nord dell'Europa, nella quale ci siamo anche noi naturalmente rispetto alla Libia. Preoccupata, governo riunito proprio su queste vicende, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Simone, è così quanto accaduto in Libia, viene seguito con molta attenzione e apprensione dal governo italiano. A Palazzo Chigi è in corso un vertice convocato dal Premier Letta, al quale partecipano i ministri dell'Interno Alfano, degli Esteri Bonino e della Difesa Mauro, insieme ai vertici dei servizi, ma immediatamente dopo il sequestro, arresto del premier libico, quindi nelle prime ore della mattina, si erano riuniti presso lo Stato Maggiore della Difesa, il ministro Mauro e i vertici militari per monitorare la situazione, mentre il PD ha chiesto già al governo di riferire con urgenza alle Camere, visto il ruolo strategico che il nostro paese ha da sempre avuto in Libia. Per l'Italia, ha detto Giorgio Tonini, vicepresidente del gruppo PD, capogruppo in commissioni esteri a Palazzo Madama, la stabilità di quel fronte del Mediterraneo è una priorità e l'Europa deve comunque impegnarsi in modo determinato affinché in Libia si garantisca un processo di democratizzazione. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Noi restiamo collegati con Roma perché a quanto pare siamo riusciti a ribeccare la nostra Elisabetta Fiorito in diretta a Montecitorio per parlarci di questa giornata molto confusa, ecco, per così dire, che riguarda naturalmente tanto le vicende della Camera, e poi più avanti ci torneremo nel corso della trasmissione, quanto poi le vicende del Senato, perché è arrivata oggi anche la sconfessione di Grillo e Casaleggio ai deputati, ai senatori che hanno proposto e fatto approvare l'abolizione del reato di clandestinità. Elisabetta, buongiorno, eccoti finalmente. Buongiorno, sì, il giorno dopo il primo sì alla cancellazione del reato di clandestinità interviene infatti Beppe Grillo. Simone, l'emendamento presentato dai grillini in Commissione Giustizia al Senato e passato anche con i voti dei pentastellati non piace proprio al suo leader. Il Movimento 5 Stelle, scrive Grillo nel blog, non è nato per creare dei dottor Stranamore in Parlamento senza controllo. La posizione dei senatori Maurizio Buccarella e Andrea Cioffi è del tutto personale. Il reato di clandestinità, o meglio la cancellazione del reato di clandestinità, non faceva parte del programma. Non siamo d'accordo sia nel metodo sia nel merito. Il documento è firmato anche da Gianroberto Casaleggio e Grillo continua: se durante le elezioni politiche avessimo proposto l'abolizione del reato di clandestinità, il Movimento 5 Stelle avrebbe ottenuto percentuali da prefisso telefonico. Ma sorgono già i malumori sul posto di Grillo e alle 20 fissata un'assemblea congiunta dei parlamentari 5 Stelle proprio per discutere su questo punto. Intanto al Quirinale si è svolto questa mattina l'incontro sulla situazione nelle carceri tra il segretario generale Donato Marra e rappresentanti proprio del Movimento 5 Stelle, definito soddisfacente da Francesco Businarolo, Francesca Businarolo, membro della Commissione Giustizia. C'è poi da dire, come tu hai accennato, che questa mattina bagarre in aula alla Camera durante la discussione sul finanziamento pubblico e seduta sospesa dopo le offese di Riccardo Fraccaro, deputato 5 Stelle, contro i deputati della maggioranza. Per il momento da Montecitorio è tutto, a te studio. Grazie Elisabetta Fiorito, e poi nel corso della trasmissione sentiremo anche i deputati che hanno partecipato a tutto questo. Dovremo riuscire a collegarci anche con Fraccaro per farci raccontare come sono andate le cose, e poi anche con Roberto Giachetti del Partito Democratico, del quale parleremo anche del suo sciopero della fame per la legge elettorale. Intanto su tutto questo sentiamo il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Come previsto, abolire il reato di immigrazione clandestina sta diventando un grande tema che divide l'opinione pubblica, ma soprattutto i politici e il Parlamento. Aveva cominciato la Lega, come logico, spingendo un cuneo nelle ferite di un PDL che sta cercando con Alfano la propria identità moderata, anche attenta ai moniti del Papa Francesco. Adesso Beppe Grillo interviene con durezza, affermando che i senatori 5 Stelle, favorevoli all'abrogazione, non hanno capito niente. Il reato va mantenuto. Grillo pensa come sempre al consenso e quindi ai voti. Va a occupare uno spazio che una parte del PDL almeno sta abbandonando. Sui temi tipo legge e ordine, Grillo è molto a destra e non esita a farlo capire. Sa che lì ci sono molti voti in sofferenza e non vuole lasciare spazio alla Lega o ad altri. Tutto questo è abbastanza spregiudicato, ma del resto il movimento grillino è nato e cresciuto attraverso un uso sapiente della demagogia. Sarà lo stesso anche in futuro, finché le forze tradizionali sono così deboli e incerte. Restiamo sulla politica, ma parliamo della politica economica. Ieri è stata varata la cosiddetta manovrina per centrare l'obiettivo del 3% nel rapporto tra deficit e PIL. Ci sono anche novità sul fronte Telecom, mentre nell'esecutivo si continua a discutere di Alitalia alla ricerca di una soluzione. Sull'ex compagnia di bandiera torneremo tra un attimo. Intanto ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta per un punto proprio sulla correzione di bilancio. Sì, buongiorno. Ieri il decreto per il rientro del deficit sotto la soglia del 3%, la prossima settimana poi la legge di stabilità da portare in Europa, due provvedimenti legati tra loro e che vanno visti insieme per inquadrare la politica economica dell'esecutivo. Partiamo dalla cosiddetta manovrina, scongiurato l'aumento della benzina e degli acconti IRES ed IRAP. Il provvedimento punta sui tagli ai ministeri e ai trasferimenti agli enti locali per 1,1 miliardi e sulla vendita di immobili del demanio e dello Stato per 500 milioni di euro. Vengono così il fondo per l'immigrazione ed altre voci, ma non la cassa integrazione in deroga, che dovrebbe vedere la soluzione in un decreto parallelo alla legge di stabilità, parola del ministro dell'economia Saccomanni. Ma l'obiettivo principale della finanziaria resta il taglio del cuneo fiscale, obiettivo questo ribadito al Premier questa mattina anche dai rappresentanti di Rete Imprese Italia, dopo l'appello in tal senso lanciato da sindacati e Confindustria. Infine, Simone, una notizia sul piano Destinazione Italia: prende il via la consultazione pubblica online sul progetto approvato dal Consiglio dei Ministri per attirare gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane. E da Roma è tutto. All'Italia, si diceva, in queste ore si continua a cercare una soluzione al bivio, scrive oggi il Sole 24 Ore, fra l'aumento di capitale al quale potrebbe partecipare anche lo Stato e il commissariamento. Vi stiamo sollecitando sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno se secondo voi all'Italia bisognerebbe lasciarla andare, scrive Roberto Perotti, titolo del commento di Roberto Perotti sul Sole 24 Ore: ora basta, vendiamola. Devo dire, molti a favore di quest'ipotesi, anche se in realtà l'Italia è già privata e quindi si tratterebbe di lasciarla andare. Ci scrive Pasquino Pasquetti: un'ingiustizia immensa che ci siano imprenditori costretti a chiudere perché non riescono ad ottenere 2 euro in banca, mentre ci sono aziende in continuo fallimento ed emergenza come all'Italia. In merito alle rotte turistiche ci scrive Luigi Rosa: oramai all'Italia all'estero ha una fama pessima, la gente viene in Italia nonostante all'Italia, non grazie a lei, siamo realisti, e quindi dice non serve nemmeno da questo punto di vista. Potete continuare a commentare sulla nostra pagina Facebook. E parliamo di un'altra azienda adesso, perché sarà firmato oggi al Ministero dello Sviluppo l'accordo sulla Natuzzi, come sapete che è un'azienda attiva nell'arredamento, in particolare nei divani, che prevede da subito la riduzione degli esuberi da 1726 a 1506 e il rientro della produzione dalla Romania in Italia. Abbiamo disinnescato una vera e propria bomba sociale, ha detto Fabrizio Pascucci, segretario nazionale Fenea Luil, che lo definisce un accordo storico. Ha sentito Cinzia Caserio. Lo scambio è stato questo: noi saremo temperati nelle richieste sindacali, voi però riportate le lavorazioni della Romania in Italia, recuperando 500 persone adesso e 200 entro il 2018. Purtroppo è solo l'inizio di questo accordo, perché dobbiamo costruire Renewco, dobbiamo fare l'accordo con l'impresa per tutta la parte commerciale, dobbiamo fare il trasferimento dei lavoratori dalla mobilità o dalla cassa integrazione alla nuova impresa, dobbiamo cercare di vedere la serietà di queste imprese. Tasse non pagate per 17 milioni di euro è quel che contesta la procura di Arezzo a Licio Gelli nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge anche sua moglie, 3 figli e un nipote. Nel 1998 nel giardino furono trovati nascosti in vasi e fioriere più di 160 kg di lingotti d'oro. Ora Villa Wanda, 32 vani, piscina, serra e terreni agricoli sulle colline di Arezzo è stata posta sotto sequestro preventivo. Un provvedimento emesso nell'ambito di un'inchiesta della Procura che vede Licio Gelli, l'ex venerabile Gran Maestro della Loggia P2, indagato per reati fiscali insieme alla moglie Gabriella e ai tre figli e un nipote. In particolare l'inchiesta riguarda il mancato pagamento di tasse per l'ammontare di 17 milioni di euro. Il colonnello della Guardia di Finanza, Dario Solombrino. I membri della famiglia Gelli hanno posto in essere una serie di operazioni societarie atte a dismettere l'immobile pur lasciandolo di fatto nella disponibilità della famiglia, intestandola attraverso una serie appunto sofisticata di passaggi ad una società di comodo. Gelli, 94 anni, attualmente risiedeva proprio a Villa Wanda. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Grillo e Casaleggio sconfessano i loro senatori. L'abolizione del reato di clandestinità non era nel programma. Intanto alla Camera scontro, insulti e minacce sul finanziamento pubblico ai partiti. Ladri, grida Fraccaro del Movimento 5 Stelle. Sequestrato e poi rilasciato dopo poche ore il premier libico Zeidan. Sarebbe una risposta alla cattura da parte americana di Alibi, caedista ricercato da 15 anni dalla CIA. Governo italiano riunito. Il Nobel per la letteratura va ad Alice Munro. Era tra i favoriti. Maestra del racconto contemporaneo, la motivazione dell'Accademia Reale svedese. Torneremo a parlarne più avanti. La manovra correttiva senza nuove tasse, tagli di spese e vendite di immobili per raggiungere l'obiettivo del 3% nel rapporto tra deficit e PIL. L'ex venerabile maestro della P2, Licio Gelli, indagato con la famiglia per una maxi evasione da 17 milioni di euro. Sequestrata la mitica Villa Wanda. Allora, non siamo impazziti, vi abbiamo annunciato che nella seconda parte, insomma adesso, subito dopo la viabilità, avremmo parlato di politica, probabilmente immaginerete che inizieremo a parlare di Lega, e invece no, in realtà parliamo della nobiltà, no, di questo brano, perché oggi è il bicentenario di Verdi, 10 ottobre 1813 nasceva Verdi. C'è una maratona, una vera e propria maratona musicale in corso alla Scala. Adriana Fracchia, tu sei là, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tantissime le celebrazioni in questi giorni per il bicentenario della nascita di Verdi. Partiamo dal Regio di Torino di ieri, che col Simon Boccanegra ha inaugurato la stagione lirica riprendendo l'allestimento di Silvano Bussotti del 79, e oggi grande maratona qui alla Scala, che è aperta a tutti i cittadini fino alle 18 di oggi, proprio in questo 10 ottobre 1813, che appunto ricorda il bicentenario della nascita, e fino al 27 gennaio, che è il giorno della morte di Verdi, avvenuta nel 1901. La Scala dedica quindi al grande compositore un programma di oltre 80 eventi tra concerti, mostre e varie iniziative che vedranno coinvolti tantissimi teatri, perché ricordiamo che Verdi nacque a Busseto ma scelse Milano come città d'adozione. Il cuore di questi eventi è appunto la Scala. State sentendo in sottofondo la proiezione dal vivo della registrazione integrale del Requiem, che venne diretto da Barenboim nell'estate del 2012. Qui c'è tantissima gente, tanti turisti, ma anche tantissimi ragazzi, perché è quale migliore occasione per divulgare la musica di Verdi ai giovani. Grazie Adriana, poi ci racconterà, immagino diffusamente, anche nel corso della giornata di questo evento. Grazie Adriana Fracchia, e noi torniamo ancora alla politica. Voi vi arroccate nel bunker in basso per tenervi stretto il malloppo, e noi, Presidente, continueremo ad opporci e continueremo a chiamarvi ladri. Deputato Fraccaro, la invito a terminare il suo intervento usando un linguaggio non offensivo dell'Aula e del Parlamento. Ah, che poi l'abbiamo beccato, Riccardo Fraccaro, buongiorno, è qua con noi. Mi avete beccato? Eccolo, buongiorno. Eccolo qua. Buongiorno. Ma che cosa è successo dopo quel suo intervento in Aula così duro? Beh, c'è stato un po' di chiasso, diciamo così, lasciamo perdere le offese, le minacce, una scarpa. No, non lasciamo perdere, ce le racconti un po', perché io vorrei anche capire un attimo che clima si respira in questi casi all'interno, come dire, della Camera dei Deputati, insomma. Stiamo parlando di un organo costituzionale. Arrivano delle grida tipo ti aspettiamo fuori, queste cose qui, vabbè, ma spesso succede. Mi scusi la curiosità morbosa, ma chi è che si è tolto la scarpa come Khrushchev? Era un deputato di Scelta Civica, mi hanno detto, perché io non l'ho visto, mi hanno detto i miei colleghi, e non so il nome, per dirle la verità, perché poi non ho avuto modo di verificare e nemmeno mi interessa. La scena che andiamo sui contenuti. Ma perché è stato così duro il suo intervento? Perché è incredibile, questi partiti che non hanno rispettato il referendum del 93, e per me già è assurdo e già è veramente grave. In secondo luogo hanno chiamato, pur di tenersi il finanziamento pubblico, l'hanno chiamato rimborsi elettorali con il famoso stratagemma, e questa è stata una presa in giro dei cittadini. Hanno fatto la campagna elettorale per cavalcare anche un po' la nostra protesta e la nostra denuncia, hanno fatto la campagna elettorale dicendo no al finanziamento pubblico. In questa legislatura appena iniziata, con la coerenza di cui sono capaci, si sono già intascati la prima rata di finanziamento pubblico. Allora io li ho chiamati ladri, perché è l'unico termine che mi viene in mente di fronte a queste cose qui, perché dire una cosa in campagna elettorale fa completamente l'opposto, intascarsi i soldi dicendo quando in campagna elettorale avevano detto che non l'avrebbero più fatto, è gravissimo, perché in questa situazione disperata in cui siamo con l'acqua alla gola, tutti i cittadini stanno soffrendo, fare questi gesti è indecoroso. Allora, Fraccaro, io la interrompo, saluto Roberto Giachetti del Partito Democratico, buongiorno. Allora, io l'ho voluta chiamare oggi perché in realtà, come dire, ci interessa molto la sua battaglia per la legge elettorale. Lei è tornato a fare lo sciopero della fame su questo tema, l'aveva già fatto. Però prima di tutto mi faccia sentire un commento su questa giornata alla Camera, perché lei era in aula, suppongo, vorrei capire un po' che cosa è successo là dentro, anche perché in tutta sincerità, ora è brutale l'espressione ladri, cioè magari non è adatta a un organo istituzionale come la Camera dei Deputati e un organo così alto, però non è che se ne siano sentite di cioè se ne è sentita anche di peggio, insomma, no? Sì, ma questo non c'è dubbio, però è anche vero che non è, siccome se ne sono sentiti di peggio, no, si può tranquillamente usare la parola ladri, e poi ho sentito l'onorevole Fraccaro dire siamo stati insultati. Insomma, voglio dire ladri non è un giudizio politico, è una ingiuria, peraltro indiscriminata, quindi poi che le reazioni siano, come spesso accade alla Camera, se ci sono delle cose, delle reazioni scomposte, questo è un altro paio di maniche. Io adesso non ho visto la scena della scarpa, ma insomma anche di questo purtroppo ne abbiamo viste tante. Vorrei anche dire all'onorevole Fraccaro che sicuramente comprendo che lui sia molto legato agli effetti del referendum del 93, segnalo che c'era un altro referendum in questione sulle quali sono raccolte le firme da parte dei radicali fino a qualche settimana fa, che purtroppo non è andato in porto perché per esempio il Movimento 5 Stelle si è addormentato e le firme non ha raccolte su quel referendum. Ecco, quella era un'occasione concreta, anche visto che si sostiene che il Parlamento fa melina, non vuole fare e via dicendo, quella era un'occasione molto concreta per fare in modo, come dicono loro, che il popolo italiano potesse esprimersi. Non si è avvertito, diciamo, un impegno del Movimento 5 Stelle in questa fase. Allora, Giachetti, lei probabilmente ormai è abituato allo sciopero della fame, quindi la sento bella pimpante tutto sommato. Da quant'è che non mangia? No, sono 4 giorni, mi sento pimpante anche per questo. Certo, naturalmente, sono solo 4 giorni. Che cosa chiede lei? È uno sciopero, mi sembra di aver capito che è un gesto prevalentemente rivolto al suo partito? No, questa è un'interpretazione stata un po' data. Il mio è un gesto rivolto a un sistema che da 2 anni, per parlare di un tempo ridotto, continua a proclamare in ogni dove, in ogni modo, basta con il porcellum, bisogna cambiare questa legge elettorale, e poi di fatto al momento in cui questo si può realizzare invece non si passa dalle parole ai fatti. Io ho tentato con una mozione a maggio di fare in modo che questo si potesse realizzare, quella mozione è stata respinta, ho provato ancora... Quella per il Mattarellum, per il ripristino del Mattarellum. Sì, guardi, ma non perché io ritengo che il Mattarellum sia la panacea di tutti i mali, ma semplicemente perché è un modo semplice per far sì che si ritorni alla precedente legge, garantendo due elementi essenziali, che sono quello degli elettori che possano scegliere i propri rappresentanti e contestualmente avere una situazione che garantisca un minimo di governabilità più di quanto non consente questa legge elettorale. Segnalo anche una, come dire, contraddizione, nel senso che tutti dicono che noi siamo, la situazione in cui siamo è figlia di questa legge elettorale, ed è assolutamente vero, perché il governo della Ghintese è determinato dal fatto che il risultato elettorale col Porcellum ha dato questa situazione, e contemporaneamente però si dice che non si può cambiare questa legge elettorale cancellandola, perché sennò cade il governo. Diventa complicato immaginare come si fa a superarla se siamo stretti in questi Certo, brevemente, in 10 secondi, fino a quando andrà avanti Giachetti? Il Senato non avrà approvato una legge che cancelli il Porcellum, premetto che non si tratta più della mia proposta. Io digiuno perché loro, attraverso l'onere che ora hanno di fare una legge, rispettino gli impegni assunti con gli italiani, loro tutti. Tutti quanti. Fraccaro, le chiedo anche su questo un commento, perché insomma abbiamo visto il famoso post di Grillo che dice andiamo a votare col Porcellum. Io le devo dire la verità, sono rimasto molto stupito, perché in tutta sincerità la battaglia che avete fatto voi contro questa legge elettorale è stata molto forte. Le ripeto, mi ha un po' quasi scioccato, direi, insomma, Fraccaro. Lei che dice? Dico che innanzitutto devo ringraziare Giachetti per l'onestà intellettuale con cui ha affrontato, l'unico del PD, a mio avviso, con cui ha affrontato il tema, e lo conosco e glielo riconosco anche di persona. In secondo luogo, lui parlava del referendum dei radicali. Questo è vero che c'è stato il referendum dei radicali, ma intanto perché fare un altro referendum quando non abbiamo ancora rispettato quello del 93? Non serve. Bene, ok, questo sul finanziamento pubblico. Mi risponde sulla legge elettorale? La legge elettorale le rispondo. Il nostro gruppo parlamentare ha votato la mozione Giachetti. È stata la dimostrazione pratica, e continua ogni giorno che passa, la dimostrazione pratica che questa maggioranza non vuole abolire il Porcellum, fino a che non verrà approvata una legge elettorale a loro immagine e somiglianza. Siccome noi abbiamo visto le bozze delle leggi elettorali presentate, ad esempio da Violante e da altri, e la riteniamo peggiore ancora del Porcellum, perché di fatto vincola questo paese a solo due partiti che si alternerebbero da qui ai prossimi decenni al potere, senza tra l'altro introdurre di nuovo la preferenza. Quindi voi dite, a questo punto... A questo punto il Porcellum diventa persino il male minore, questa è la sostanza? Esatto, sono capaci di andare sempre peggio. Allora, Fraccaro, l'ultima domanda che le devo fare, la prego di stare in 10 secondi perché siamo in chiusura di blocco e poi abbiamo la pubblicità. Sì, no. E poi abbiamo la pubblicità. Come la vede lei su questa abolizione del reato di clandestinità? Io la vedo che dobbiamo trovarci, riunirci, parlare e elaborare, come abbiamo fatto per le carceri, un sistema, un programma di revisione della situazione immigrazione completo, omnicomprensivo. Secondo lei è stato un errore il voto di ieri al Senato? Losi. Come? Sì, secondo me è stato un errore, perché abbiamo sempre fatto la battaglia contro i decreti omnibus, e introdurre una norma che non affronta in maniera organica il problema può creare più danni di quelli che risolve. Grazie a Riccardo Fraccaro, grazie a Roberto Giachetti, che voglio grazie tornare a sentire nelle prossime settimane, perché mi sa che questo sciopero della fame durerà a lungo. Noi abbiamo una pausa, restate con noi perché subito dopo ci sarà la nostra Alessandra Tedesco sul Nobel per Alice Munro, il Nobel per la letteratura, e parleremo anche con l'uomo che l'ha scoperta in Italia. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Dopo gli scontri, gli insulti e le minacce alla Camera stamattina sul finanziamento pubblico ai partiti, è seduta sospesa al Senato per la protesta dei senatori della Lega contro la cancellazione del reato di clandestinità. Grillo e Casaleggio su questo intanto sconfessano i loro senatori. L'abolizione non era nel programma. Pena battuta dalle agenzie, stop alla sperimentazione del metodo stamina che utilizza cellule staminali mesenchimali, ovvero del midollo osseo. La sperimentazione, si legge in un documento di presa d'atto del Ministero della Salute, non può ulteriormente essere proseguita. Sequestrato e poi rilasciato dopo poche ore il premier libico Zeidan, sarebbe una risposta alla cattura da parte americana di Al-Libi, caidista ricercato da 15 anni. L'ex venerabile maestro della P2, Licio Gelli, indagato con la famiglia per una maxi evasione da 17 milioni di euro, sequestrata la mitica Villa Wanda. E veniamo adesso però a parlare di letteratura. Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro. Eccolo qua l'annuncio, Alessandra Tedesco, eccoci. E sì, era un annuncio molto atteso, perché Alice Munro, come dicevamo anche nella breaking news di prima, era in odore di Nobel da alcuni anni, una scrittrice canadese veramente meravigliosa che se lo merita. Lei è specializzata nei racconti brevi, la sua opera in Italia è pubblicata da Einaudi, per esempio un titolo, Chi ti credi di essere, che era stato ristampato nel 2012, Troppa felicità, e proprio quest'anno la Mondadori le ha dedicato un meridiano. I meridiani sono quei volumi, diciamo, preziosi, pregiati, che si dedicano a scrittori veramente molto molto importanti. E noi siamo in linea con Luigi Sampietro, critico letterario, esperto soprattutto di letteratura nordamericana, tra l'altro scrive anche sul domenicale del Sole 24 Ore, ed è la persona che di fatto l'ha scoperta in Italia. Sampietro, allora, tempo fa parlavamo proprio della Munro come una delle papabili per il Nobel e sicuramente una delle scrittrici che lo meritava. Cosa pensa di questo premio? Beh, assolutamente sì, sono almeno 10 o 12 anni che ne scrivo suggerendo il suo nome per questo premio, anche se non è necessariamente il premio Nobel che fa di uno scrittore un grande o grandissimo scrittore, qualche volta è lo scrittore che rende importante il Nobel quell'anno. Però la Munro è una donna estremamente riservata che scrive racconti. In inglese le chiamano short stories, ma oramai i suoi non sono veramente short, non sono corti, sono spesso lunghi 30 o 40 pagine, e diciamo che questo genere letterario, sottogenere letterario, è un po' un handicap per gli scrittori. I bestseller hanno sempre la meglio nella forma di romanzoni lunghi, romanzoni storici, romanzoni di fantasy, eccetera eccetera. Ecco, soprattutto questa in Italia, dove il racconto, insomma, purtroppo non va molto di moda. Ma secondo lei qual è come dire il valore letterario di Alice Munro? È difficile dirlo in poche parole, però insomma, per far capire al grande pubblico, cosa ha di speciale la Munro? La Munro ha di speciale che ha compiuto una sorta di rivelazione, il lettore non si deve, no, di rivoluzione. Non si deve spaventare a questa parola pensando che abbia sconvolto la struttura del racconto in maniera da renderlo astratto, incomprensibile. Però se ci riflettiamo rispetto al romanzo, dove è intervenuto il grande cambiamento formale del modernismo, pensiamo solo a Joyce, ai romanzi di Faulkner, che il lettore comune magari fa fatica ad avvicinare, il racconto è il luogo davvero nel quale o sai scrivere o non sai scrivere. A mio parere scrivere racconti è molto più difficile che scrivere romanzi, prove ne sia che anche i dilettanti i romanzi li scrivono, tanto alla fine il lettore non si ricorda più. E Alice Munro, diciamo che li scrive decisamente bene questi racconti, anche la capacità di analizzare la vita quotidiana e le relazioni umane in maniera molto acuta. Grazie a Luigi Sampietro, critico letterario che ha scoperto in Italia Alice Munro. Ricordiamo che la Munro, 82 anni, proprio a giugno aveva dichiarato che probabilmente non avrebbe scritto più nella sua vita, e questo l'ha dichiarato ricevendo un premio letterario per la sua ultima raccolta, che si intitola Dear Life, che ancora non è stata pubblicata in Italia, ma che probabilmente lo sarà da Einaudi. Simone. Grazie Alessandra Tedesco. Noi adesso parliamo invece di un evento che si sta svolgendo qua nella nostra sede, nella sede del Sole 24 Ore. Si tratta della 7ª edizione del Consumer and Retail Summit, quindi insomma abbiamo volato alto e poi basso, cioè da Verdi siamo passati alla politica, dal Nobel per la letteratura parliamo delle nostre tasche. Bisogna rimettere i soldi nelle tasche dei consumatori, e l'appello di Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Federdistribuzione, alla 7ª edizione appunto del Consumer and Retail Summit. Sentiamolo al microfono di Maria Luisa Pezzali. Ricordo solo che il reddito reale degli italiani si è ridotto di quasi il 10% negli ultimi 5 anni, quindi è una situazione reale che dice che il potere d'acquisto è diminuito. Abbiamo bisogno di riforme importanti strutturali, abbiamo bisogno di rimettere in tasca dei cittadini dei soldi prima ancora che di far funzionare la macchina dell'industria. Abbiamo bisogno di rilanciare il terziario, all'interno del quale ci sono tutti i servizi che vanno ai cittadini. Dobbiamo essere in grado di prestare questi servizi, anche quelli del dettaglio tradizionale e non tradizionale, a prezzi più convenienti, e bisogna pensare di dare sostegno alle categorie più indigenti, dando servizi, offerte alimentari, non alimentari, ma banche, assicurazioni, servizi sanitari, eccetera, eccetera, a costi sempre più sopportabili e sempre più competitivi, per aiutarli sostanzialmente con quel poco che hanno a vivere meglio. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Non una grande giornata tra Camera e Senato. A Montecitorio Fraccaro del Movimento 5 Stelle chiama ladri gli altri partiti e loro lo insultano e lo minacciano. La Lega espone cartelli in Senato con scritto pensioni no, clandestini sì, e si sospende la seduta. Grillo e Casaleggio intanto sconfessano i senatori sull'abolizione del reato di clandestinità. Sequestrato e poi rilasciato dopo poche ore il premier libico Zaidan sarebbe una risposta alla cattura da parte americana di un qaedista ricercato da 15 anni. Nobel per la letteratura ad Alice Munro, era tra i favoriti, maestra del racconto contemporaneo. Licio Gelli indagato con la famiglia per una maxi evasione da 17 milioni di euro, sequestrata la mitica Villa Wanda. Dal Ministero della Salute arriva lo stop alla sperimentazione del metodo Stamina. E ora è il momento, come sempre, del nostro collegamento dagli Stati Uniti e del collegamento con Mario Platero. Buongiorno, Mario. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24, buongiorno Simone, da New York Mario Platero, di nuovo un passo in avanti. Barack Obama ieri ha incontrato i democratici, oggi incontrerà i repubblicani, lo spiraglio si apre, forse l'accordo di cui vi parlavo qualche giorno fa, lo spacchettamento del tetto sul debito dal problema del bilancio andrà avanti, speriamo di avere una soluzione nei prossimi giorni. Intanto una certezza, Barack Obama ha nominato Janet Yellen alla guida della Federal Reserve, l'ha nominata sull'onda della continuità. Ecco, e c'è una coincidenza però bizzarra, perché abbiamo parlato molto di Larry Summers, che era il suo concorrente diretto, e chissà, forse avrebbe voluto esserci lui lì, ma invece era da un'altra parte. Sentiamo dov'era. Mario Draghi was selected because his reputation for strength, character and competence. Larry Summers era alla Kennedy School of Government a Harvard, dove insegna, e presentava un altro governatore, pensate la combinazione, Mario Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea. Ecco, devo dire, Summers ha fatto una piccola battuta, dice: ma un italiano alla guida della BCE, ma chi ci avrebbe mai creduto? Ecco, una battuta secondo me un po' infelice, perché poi l'italiano c'è e lui immediatamente lo riconosce e dice: Mario Draghi è stato scelto perché la sua reputazione di uomo forte, di carattere, di grande competenza trascende la fedeltà a un paese. Senza di lui l'euro forse oggi non sarebbe quello che è. Dunque parole molto forti per Mario Draghi, che a sua volta poi ha pronunciato un discorso alla Kennedy School of Government, parlerà oggi qui a New York all'Economic Club, vi racconterò domani che cosa ha detto. Sentiamo Draghi. It's a very long process that goes through having a common culture, it goes through having labor mobility way higher than what we have today across countries. Ecco, vi ho fatto sentire questa particolare risposta di Draghi, perché secondo me è più originale delle altre. Draghi ha parlato dell'Unione Bancaria Europea, ha ribadito quali sono le sfide, l'unione politica, l'unione fiscale, i tempi in cui tutti speriamo che questo avvenga. Però poi a un certo punto, così quasi ispirato, ha detto che la cosa più difficile, più importante, è la costruzione di una identità europea, e dice: io io nel 2001 ero qui e ho potuto ammirare la forza di questo paese nell'affrontare gli eventi drammatici dell'11 settembre, la capacità di reagire uniti a questa tragedia. E quindi poi spiega che la creazione di un'entità europea è un processo lungo che passa attraverso una cultura comune, mobilità del lavoro da paese a paese, sta parlando dell'Europa naturalmente, il superamento di sfide difficili grazie allo sforzo comune, in passato erano le guerre, dice, oggi forse la recessione può essere un equivalente. Con me ai microfoni di America 24, Carlo Bastasini, editorialista del Sole 24 Ore e a Washington, alla Brookings Institution. Buongiorno Carlo. Buongiorno Mario. Ecco Carlo, dunque hai sentito cosa ha detto Draghi, poi qualcuno però gli ha chiesto ma cosa vuol dire oggi essere europei? E lì Draghi è di nuovo tornato alle cose più tecniche. Allora, siccome io sono molto curioso di sapere qual è la risposta da una persona come te, che è stata corrispondente a Francoforte, che ha seguito la Banca Centrale Europea, che ha seguito l'Europa, te lo chiedo a te, cosa vuol dire oggi essere europei? Se devo mettere il cappello di un banchiere centrale e guardare a questa domanda, diciamo è la domanda fondamentale. In questo momento la soluzione della crisi passa per una scelta essenziale che è condividere qualcosa tra paesi diversi oppure no. Draghi non a caso si interroga su che cos'è essere europei parlando di unione bancaria, paradossalmente un tema tecnico ma che si risolve in questa scelta fondamentale. Mettiamo assieme risorse, come si dice, le mutualizziamo a fronte di pericoli comuni, anche se distribuiti in modo diverso da paese a paese, oppure no? Oppure ognuno deve occuparsi solo di quello che c'è dentro i confini? E rinunciare a sovranità, cedere sul fronte dell'unione bancaria, ma ecco, io volevo arrivare a qualche cosa di più, come dire, spirituale. Ecco, qual è la spiritualità dell'Europa oggi? Se c'è, magari non c'è. La spiritualità dell'Europa è sapere che la propria identità, l'identità di ognuno, dei cittadini, di ogni paese, non si definisce come guardandosi allo specchio, ma guardando chi è diverso da sé. Questo è, diciamo, l'identità paradossalmente è contraddittoria, non è essere uguali a se stessi, ma essere diversi, cioè non essere identici. E questa è la difficoltà di definire l'identità europea. Carlo, un'ultima cosa. Draghi parla all'America nel momento in cui l'America è in crisi, crisi di bilancio, non rinnova il tetto sul debito. Beh, per una volta l'Europa è più forte dell'America? Forse per qualche giorno è così, ma non abbastanza da essere forte se l'America è troppo debole. Bene, per una volta potrebbe essere l'Europa ad essere nuova frontiera per gli Stati Uniti d'America. Scrivetemi a Twitter, @ Mario Pratero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, condivido gli auspici di Mario Draghi. L'Europa deve unirsi e dunque vi propongo Come Together dei Beatles, ma interpretata da Bruce Springsteen con Guns N' Roses. Da New York è tutto, Simone ti ripasso la linea, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! E grazie dunque a Mario Platero, grazie a Pietro Lacorte in regia, Laura Faggini in redazione e a tutta la redazione di Radio 24 per questa puntata di Effetto Giorno. Con la trasmissione ci sentiamo domani come sempre alle 13 e invece la mia voce la risenterete tra un attimo per il GR delle 14. Ricordati! Mancano 67 giorni al pagamento della seconda rata IMU. Davide? Oddio, sono impegnato, ti ho detto oggi, non posso! Basta, basta. Io questa volta veramente non ne posso più. Adesso lo licenzio, lo licenzio sul serio. Il 18 ottobre la Zanzara vola nell'Hybrid Space di Milano. Non perdete l'evento speciale La Zanzara Live, nel primo spazio interamente dedicato alla tecnologia ibrida Toyota e Lexus, aperto fino al 28 ottobre dalle 11 alle 19. Per partecipare, www.radio24.it. Dicono che il cibo sia ottimo. Davvero? Sei bellissimo. Certe cose possono intromettersi nei vostri momenti insieme, come la disfunzione erettile. Cosa, tesoro? Dicevo, sei bellissimo. O il bisogno di andare al bagno più spesso o con urgenza. Segnali di un ingrossamento della prostata chiamato IPB. Far finta di niente non è la soluzione. Parlane col tuo medico. Potrà consigliarti varie opzioni di trattamento. Sei bellissima. Sarai felice di essertene liberato. Visita uomoesalute.it. Campagna promossa da Eli Lilly Italia S.p.A. con il patrocinio di CUCI Siams. Team System, in collaborazione con Euroconference, presenta Attractive Tour 2013, l'evoluzione dei software gestionali. Dal 10 ottobre all'8 novembre i software partner aderenti invitano tutti i commercialisti ai numerosi eventi formativi accreditati. Iscriviti gratuitamente su teamsystem.com al convegno più vicino e scopri le ultime novità dell'offerta Team System. Partecipa all'evento e vinci uno dei Samsung Galaxy Note in palio. Regolamento su teamsystem.com. Software Team System, flessibili e adattabili per ogni esigenza. Coaching Expo 2013. A Roma, il primo evento nazionale dedicato al coaching. Il 25 e 26 ottobre prossimi al Tempio di Adriano, coach professionisti, società di consulenza, associazioni e aziende si incontreranno per confrontarsi e creare nuove occasioni di business. Ospiti e relatori di eccellenza per parlare di nuovi stili di leadership, engagement in azienda, fiducia. A Roma, al Tempio di Adriano, il 25 e 26 ottobre. www.icf-italia.org. Massimo, se trovassi una lampada, quale sarebbe il tuo desiderio? Ah, che fosse una lampada a risparmio energetico, con le bollette che pago. Ma non una abat-jour, una lampada di Aladino. Ma i miei desideri li realizza Citroën. A ottobre, nuova Citroën C3 5 porte con clima da 9.850 euro. Come a settembre? Sì, e posso ancora averla a 99 euro al mese. E dopo due anni sono libero di sostituirla con una nuova, tenerla o restituirla. TAN 3 99%, TAI GOT 19%. Info su citroen.it. Sei un genio. Colpisce all'improvviso. Quando meno te lo aspetti, ti trasforma in un'altra persona. Non ti riconosci più e non si fermerà mai. La caduta dei capelli fa paura? Scopri le soluzioni esclusive, efficaci e sicure di Cesare Ragazzi Laboratories. Prenota ora il tuo check-up gratuito su cesareragazzi.com o al numero verde 800 150 150. Back to Work 24, gruppo 24 ore. Sono Luca. Dopo tanti anni di lavoro e di risparmi accumulati, cercavo una nuova forma di investimento attraverso la quale diversificare il mio patrimonio. Ho conosciuto Back to Work 24 e sono venuto in contatto con diverse imprese italiane, piccole ma di qualità, che grazie al mio investimento possono crescere e svilupparsi. Vai su backtowork.it. Back to Work 24, gruppo 24 ore. Investi nel tuo lavoro. Verrà il giorno in cui supereremo la furia dei venti e i consumi si prosciugheranno. Ritroveremo la strada perduta e nessun pericolo ci sorprenderà alle spalle. Maestro, ma arriverà mai? È già arrivato. Innovazione e non fermarsi mai. Nuovo Sprinter da 90 euro a settimana per 47 mesi con manutenzione inclusa. Anticipo 6.860 euro, TAN 4,80, TAEG 5,67 e riscatto 10.395 euro. Fino al 31 dicembre, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Info nuovosprinter.com. Le piccole e grandi domande della vita quotidiana avranno finalmente una risposta, anzi, due. Deborah, in fondo, di che cosa si parla tutti i giorni a casa, in famiglia, al lavoro, con gli amici?